Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Ecco, c'è Ferry Boat, è insergante traghettatore, e oggi più che di economia sociale parliamo di arte e di cultura, che sono sociale per definizione, ma la correlazione con Ferry Boat e il viaggio c'è sempre. Infatti parliamo di arte e di cultura, che sono espressione diretta dell'impegno dell'impresa nella responsabilità sociale. Zegna, Falck, Ferragamo, Gancia, Mapei. Solo alcuni dei soci fondatori dell'Associazione Italiana Aziende Familiari. E la CSR diventa cultura con la C maiuscola. L'arte contemporanea a questa sconosciuta? Con Terna è più comprensibile, ma di questi tempi bisogna andare a Shanghai. E se un'azienda è cultura per definizione, per esempio un editore come Feltrinelli? Allora è meglio darsi all'architettura. E ne sentiremo proprio delle belle, è il caso di dirlo in questa puntata, perché arte e cultura sono bellezza per definizione. Ma prima di parlare di bellezza, di arte e di cultura, vogliamo, come dire, sottolineare un altro bel primato, vecchio, antico primato dell'impresa italiana. Family Business, una rivista americana, stila ogni anno una classifica delle aziende familiari più antiche del mondo. Nella nuova graduatoria compaiono 13 aziende italiane, di cui 6 tra le prime 10. Scorrendo i nomi di queste aziende secolari, si intraprende un viaggio affascinante nelle radici dell'economia nazionale, dall'alimentare, con i vini di Ricasoli e Antinori, e la liquirizia di Amarilli, al tessile, design e arredamento con le ceramiche Deruta, i vetri Barovier e Toso, i gioielli Torrini, i tessuti di Fratelli Piacenza e Lanificio Conte, alla meccanica, le campane di Fonderia Marinelli e Colbacchini, le armi Beretta. Un viaggio alle radici del mondo, si direbbe. Alcuni nomi sono veramente evocativi. Gioacchino Attanzio, lei è direttore generale dell'Associazione Italiana delle Aziende Familiari, quindi lei vive la poesia dell'impresa italiana con la sua associazione. Ah beh, certo. Nell'associazione ci sono 180 aziende che compongono con il loro fatturato circa il 10% del PIL, e sono tutte aziende fortemente impegnate nel sociale e fortemente dedite all'impegno per salvaguardare la cultura e l'arte. E d'altra parte l'azienda familiare, essendo familiare, ha dei valori forti, e fra questi valori c'è sicuramente l'attenzione all'arte, che si esprime anche spesso attraverso i prodotti, e ne è testimonianza il Made in Italy, che noi conosciamo bene e che anno dopo anno si rinforza, e anche dopo questa crisi e con questa crisi comunque riesce ad emergere, dice. Il presidente dell'associazione è Maurizio Sella. Okay, il bancario, lavoro, giusto, la banca, il banchiere. Il banchiere, sì, che poi è un'azienda familiare anche quella di 14ª generazione, quindi fra quelle più antiche, oltre quelle che lei ha citato poco fa. 14ª generazione, l'uno per l'altro, volendo fare un calcolo approssimativo sui 50 anni per generazione, ma dovrebbe essere di più. No, forse un po' meno. Un po' meno. Quindi come funziona il calcolo? Quanti anni sono? Possiamo parlare di 300-400 anni, insomma. Insomma, davvero ci perdiamo nella notte dei tempi. Ecco, noi. Non è detto che poi si mantenga sempre lo stesso business, perché la famiglia Sella è partita come col tessile e poi è diventata banca. Si è voluta, certo. No. C'è stato anche, voi assegnate anche un premio, il premio dedicato ad Alberto Falck, l'azienda familiare, così? Eh sì, ogni anno da un po' di anni assegniamo un premio proprio in onore di Alberto Falck, che è stato il fondatore dell'associazione, e lo assegniamo all'azienda che oltre ad avere un valore economico ha dei parametri abbastanza decisivi sull'impegno nel sociale. Noi stiamo parlando anche di una tradizione che ha in Olivetti, per esempio, uno degli anticipatori. Cioè, qui al nord, in Piemonte, c'è addirittura una città vera e propria che è nata attorno all'azienda di Olivetti. Eh sì, quella borghesia, che la famiglia Olivetti, la famiglia Pirelli, la famiglia Falche, non solo queste, non dobbiamo dimenticare ai Martinite, l'impegno dei Pirelli, della famiglia Pirelli, anche per gli orfani. Diciamo che c'è una tradizione molto forte delle aziende familiari e delle famiglie nei confronti del sociale in generale. Infatti spesso quando parlo di responsabilità sociale d'impresa, anche in occasione di convegni, viene fuori sempre che l'anima dell'azienda italiana, cioè la responsabilità sociale d'impresa in Italia non è una novità, appartiene alla cultura dell'impresa italiana, a prescindere dal fatto che si vuole enfatizzare o meno questo ruolo di CSR. Certo. Voi avete anche, come dire, l'ha detto già lei, lo voglio sottolineare perché è il tema della puntata, sulla cultura e sull'arte c'è un impegno preciso, che a Firenze il 12 e 13 novembre di quest'anno, in occasione della vostra assemblea annuale, convegno annuale, sarà ribadito l'impegno sull'arte e sulla cultura. Come funziona questa convegno annuale? È un bel convegno, quest'anno in particolare. Certo, è un po' difficile fare un collegamento diretto fra arte, cultura e valore economico, però non c'è dubbio che l'arte e cultura, di cui poi ciascuno di noi e in particolare le aziende familiari, le famiglie imprenditoriali, sono intrise di arte e di cultura, e questo lo trasmettono come valore nei loro prodotti, nel loro modo di agire, nel loro proporsi al mondo. E questo convegno vuole proprio enfatizzare questo punto e sottolinearlo, e sottolineare anche la difficoltà che c'è in Italia per il contesto, il sistema che non favorisce assolutamente la preservazione dei beni culturali e dei beni artistici. E in questo convegno noi vogliamo sottolineare questo. Chi sono i protagonisti? Cioè chi? Ecco, adesso non le chiedo di fare dei nomi perché forse nella sua posizione può essere imbarazzante, ma secondo lei chi sono le aziende che più hanno contribuito in questi anni, i mecenati insomma, veri e propri, nel campo dell'arte e della cultura, quelli con la A e con la C maiuscola? In parte li ha citati lei. Se va nei musei ci sono le donazioni di Falck, piuttosto che il Parco Zegna, le strade fatte, gli ospedali fatti da Buzzi, la famiglia Vedani che ha delle case di accoglienza, e diciamo che questo è un impegno di carattere sociale. Poi ci sono impegni anche per sponsorizzare le ristrutturazioni di beni artistici e beni culturali, quindi c'è molto impegno da questo punto di vista, e devo dire che il nostro convegno vuole sottolineare proprio questo aspetto, che è molto importante, e credo proprio che crei valore per le aziende. Le aziende stesse, dotandosi di questo impegno, poi riescono a ottenere un valore maggiore e a presentarsi e a proporsi meglio al mondo. C'è da dire che bisogna sottolineare, perché è apprezzabile, che queste aziende però non strumentalizzano molto, cioè io non vedo in giro comunicazione di queste aziende che si vantano dell'appoggiare l'arte e la cultura, lo fanno con una certa discrezione, come se realmente fosse solo e unicamente quello lo scopo di fare cultura. Gioacchino Attanzio, grazie per aver partecipato alla trasmissione, ci sentiamo alla prossima. Quanto sia difficile coniugare l'arte con l'economia, diceva Attanzio, ma pensate un attimo se invece l'arte dovesse, come dire, essere coniugato con altri aspetti, alle volte neanche tanto, come dire, piacevoli. Ci sono punti di contatto tra arte e criminologia? Molti punti, più di quanto si possa immaginare. L'arte è una delle poche medicine verso l'agire criminale, e ho potuto constatare di persona la veridicità di questa affermazione. Quando una persona può sublimare nell'arte alcuni impulsi, non diventa un criminale. Francesco Bruno, criminologo. Ci sono punti di contatto tra arte e calcio? No, sono due cose completamente diverse. L'arte è molto più rispettabile. Il calcio è uno spettacolo, e tanto per fare una battuta, già il fatto che è giocato con i piedi la dice lunga. Ivan Zazzaroni, giornalista sportivo. Ci sono punti di contatto tra arte e lavoro? Sì, senz'altro. Siamo un paese che produce e vende cultura sotto varie forme. Per esempio, anche nei manufatti industriali si nota un gusto e una genialità che non si riscontra negli altri paesi. Si potrebbe dire che in Italia ci sono tanti piccoli e grandi artisti anche nel mondo del lavoro, che esprimono una profonda cultura in tutte le cose che fanno. Luigi Angeletti, segretario generale UIL. Beh, insomma, quanto si giochi con i piedi il calcio, mai come in questi giorni questo paese si sta interrogando dopo quello che è accaduto in Sudafrica, ovviamente. Giovanni Buttitta, però, direttore comunicazione di Terna, buongiorno. Buongiorno. Però noi siamo qui non per parlare di calcio, fortunatamente, ma proprio che di arte, quest'arte che abbiamo voluto proporre con queste dichiarazioni che abbiamo tratto, fra l'altro, dal sito di Terna. E Giovanni Buttitta credo che sia proprio, come dire, il manager che ha voluto più di tutti forse che Terna si impegnasse in questo percorso di arte, così? Ma diciamo che il volere è stato il potere, ma è stato il potere dell'azienda. Come ricordava lei, fare azienda vuol dire essere e condividere una scelta. La prima scelta è stata dell'amministratore delegato Flavio Cattaneo e del presidente Luigi Rott. Diciamo che poi io con la squadra e il gruppo di lavoro abbiamo costruito insieme a degli esperti di arte un premio che in Italia ha avuto e ha acquisito un suo spazio. Beh, anche per una, come dire, anche perché uno, se non l'unico premio di arte contemporanea, in questo caso collegata ad un'attività di impresa, vero? Sì, è collegata a un'attività di impresa e collegata a un mondo di impresa, perché a differenza di altri premi, ne abbiamo censiti più di 80 in Italia, il premio Terna è un premio tematico, cioè si fa lavorare l'artista in modo un po' mecenatistico, se vogliamo ricordare quello che è stato il mecenatismo degli anni e dei secoli precedenti, su un tema, quindi senza nessuna remora o preoccupazione, si fa lavorare in modo libero e creativo l'artista, lo si chiede di lavorare su un tema che è legato all'ambiente, alla trasmissione dell'energia, cioè alle tematiche vicine alla nostra all'attività di impresa. Ci fermiamo un attimo perché dobbiamo dare le notizie del traffico e continuiamo con Giovanni Buttitta, direttore comunicazione di Terna. Ferryboat, in viaggio verso l'economia sociale. Stiamo parlando di arte contemporanea, del premio Terna con Giovanni Buttitta, direttore di comunicazione di Terna, che ci spiegava che nella marea di premi, ottantina censiti dell'azienda, quello di Terna ha la specificità di essere un po', mi ricorda le vecchie collettive, Buttitta, come quando gli artisti venivano magari schiaffati in riva al fiume e gli si chiedeva di interpretare il passaggio dell'acqua, voglio dire, no? E quindi si premiava alla fine l'impronta anche. Sì, questo il nostro fiume è la rete, perché noi consentiamo durante i mesi del premio a chiunque di inserire una propria opera sul tema che è stato definito sulla rete. Quindi è un premio che lo scorso anno, nella seconda edizione, ha avuto più di 3.500 opere in rete, tra le quali sono state selezionate le finaliste e poi vincitori. Accidenti, sono davvero tanti. Chi sono i partecipanti? Sono artisti affermati e immaginiamo anche dilettanti allo sbaraglio, vero? Una categoria di invito di cosiddetti maestri, cioè le persone che hanno deciso in una maniera abbastanza originale di far parte di un gruppo che rappresentano i fari per tutti gli altri. Tutti gli altri sono tutti gli italiani che sopra i 18 anni o per professione o per diletto amano l'arte, mandano le loro opere, quindi veramente tutte le regioni italiane sono rappresentate, tutte le età, dal più giovane appena maggiorenne a persone che hanno anche superato la novantina, ma la cosa interessante è che tutte si esprimono con un livello di qualità, secondo i due curatori Marziani e Collu, molto alto. Molto alto. Voi poi ovviamente di questo patrimonio ne fate come dire, oggetto di comunicazione anche internazionale, in questo caso direi forse soprattutto, visto che avete fatto un lavoro importante a Shanghai nella sede di quell'Expo. Lì è andata proprio bene. Anzi, è ancora in corso peraltro la mostra, no? È in corso la mostra al SUPEC, che è uno dei più importanti musei di contemporanea di Shanghai, in Piazza del Popolo a Shanghai, e tutti i finalisti, i vincitori finalisti sono della seconda edizione, sono lì. La cosa interessante è che per la seconda volta, e non è un caso che sia la Cina e Shanghai, una grande città contemporanea, dopo la prima edizione a New York, ha invitato il premio Terna. Siamo molto orgogliosi, e le istituzioni, dal Ministero dei Beni Culturali agli esteri, all'industria, sono molto soddisfatte di questa attività pubblico-privata sull'arte. Quindi è indubbiamente diventato di spessore internazionale questo premio, e se ne sente la mancanza. Ogni anno un tema, l'anno prossimo avete già deciso? Ma l'anno prossimo avremo la mostra conclusiva di questa terza edizione, che ha la visione, il potere e i 150 anni di storia. Un richiamo forte ai 150 anni che nel 2011 vedranno l'Italia protagonista. Il prossimo anno pensiamo sempre a dei temi molto vicini al mondo dell'energia, della trasmissione di pensiero, a temi insomma vicini a quello che la nostra società fa tutti i giorni. Ecco, una battuta a proposito della nostra società: sono pochissimi magari a non conoscerla, ma a qualcuno potrebbe sfuggire. Che cos'è Terna? Terna è praticamente il sistema nervoso energetico, quindi le linee di trasmissione, più di 60.000 chilometri di tralicci, cavi e impianti che servono per portare tutti i giorni, ogni secondo di ogni anno, l'energia dai centri di produzione, quindi dalle fabbriche, dalle centrali elettriche alle aziende di distribuzione, che poi la portano nelle nostre case e nelle nostre aziende. Ecco, molto postmoderna come arte, ma tutto sommato anche quella dei tralicci in qualche modo lo sarà quando diventerà post-industriale. Grazie Buttitta, buon lavoro, a presto. Grazie a voi. C'è poi anche un'altra azienda che, come dire, la cultura la fa per definizione e per business, per esempio l'editore. In questo caso, dicevamo nel sommario di questa puntata di Ferribot, allora cosa fa un'azienda che si occupa di cultura per definizione? Cambia mestiere, come quelli che si danno all'Ippica nel caso del calcio, per esempio. In questi giorni la Feltrinelli ha deciso di darsi all'architettura. C'è un progetto di riqualificazione urbanistica dell'area Porta Volta di Milano, voluto dal Comune di Milano e dal gruppo Feltrinelli, e che prevede la nuova sede della Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli. Gli architetti svizzeri Herzog e De Meuron hanno disegnato una struttura edilizia che esalta gli elementi urbanistici e valorizza l'antica porta grazie a due strutture gemelle. Viene così riproposta la ricca tradizione lombarda degli edifici gemellari, valorizzando e ampliando le superfici verdi pubbliche create dalle antiche cinte murarie. Paolo Soraci è responsabile della comunicazione dei librerie Feltrinelli, è con noi a Ferribot, a bordo. Paolo Soraci, salve. Buongiorno a tutti. Sentita la scheda, a proposito, noi abbiamo aperto la trasmissione parlando di aziende familiari, di aziende che hanno fatto e fanno la storia delle imprese in questo paese. Feltrinelli è indubbiamente fra queste. Assolutamente, non è un'azienda, come dire, senza volti e nomi alla proprietà, non è un'azienda quotata in borsa, è un'azienda che continua ad appartenere alla famiglia Feltrinelli, e quindi ci sono delle persone direttamente alla guida di questa azienda. Ecco, per definire un po' quello che è oggi Librerie Feltrinelli, ma anche per dare il peso che merita nell'ambito di questa puntata sulla cultura, nelle 97 Librerie di Feltrinelli vendono molto, molto, molti libri fra quelli che noi leggiamo in Italia, così? Direi di sì, nel senso che, come dire, sono 97... punti vendita, chiamiamoli, tra librerie, tra megastore, quindi luoghi di cultura dove si vendono comunque sempre in larga maggioranza libri, ma anche musica registrata, anche cinema, anche quindi altre merceologie che rimangono di contorno al libro, ne completano l'offerta e in qualche modo aiutano, come dire, a vendere se stesse e anche i libri in più. Che se non ricordo male un dato a sua volta, a suo tempo, che mi aveva colpito: un libro su quattro venduto in Italia è venduto dalle librerie Feltrinelli, è corretto? Pochino meno, arrotondiamo. Sì, più o meno un libro su quattro, un po' meno di un libro su quattro, comunque sono tanti. Ma a proposito di vendita di libri, una curiosità, e poi parliamo della vostra iniziativa culturale, con questa crisi la flessione si è fatta sentire tanto, poco o per nulla? Diciamo che la flessione si è fatta sentire poco, soprattutto riguardo come dire, a confronto con il resto del mondo che ci circonda. Nel 2009, probabilmente a fine 2010 ci sarà stata una flessione nella vendita di libri, ma incomparabilmente meno accentuata di flessioni che riguardano altri mondi, cioè siamo veramente alle frazioni delle frazioni. È un mondo molto, come dire, è un mondo molto maturo quello della lettura, e quindi negli anni strepitosi cresce, ahimè, di poco, e negli anni disgraziati si contiene di poco, scala di poco a sua volta. Questa è un'altra garanzia in tempi perigliosi. Ne gioviamo. Voi, come libreria, appunto come libreria Feltrinelli, non avete certo da investire in termini culturali, però avete trovato un percorso, come dire, laterale, che è la diffusione della cultura della sostenibilità, e quindi da qui a quest'autunno state lavorando ad una serie di iniziative che serviranno a veicolare ancora di più un messaggio che è già, come dire, presente e presidiato. Certo, allora è chiaro che noi non abbiamo il problema che hanno magari altre aziende, altre industrie, di darsi, come dire, uno statuto etico, sociale e culturale che non coincide con magari l'oggetto diretto e pratico della propria produzione. Noi vendiamo idee, vendiamo cultura, vendiamo etica, vendiamo l'immaginario, cioè, come dire, vendiamo una cosa che già di per sé è la nostra ragione sociale, il nostro tributo etico. Detto questo, al di là di vendere i libri, al di là di vendere i testi, i titoli che sono presenti in assortimento, da sempre una libreria con le caratteristiche, un'azienda con le caratteristiche di librerie Feltrinelli si sente chiamata a fare un passo al di là della pura messa a disposizione dei clienti di prodotti culturali. E quindi, come per 2 anni, ma la cosa continua e continua in maniera molto intensa, ci siamo occupati del razzismo con una campagna che ha coinvolto sia librerie Feltrinelli che la casa editrice Feltrinelli, anzi da lì partiva una campagna che si chiama Razzismo è una brutta storia. Così quest'anno in autunno daremo vita a una grande iniziativa sui temi della sostenibilità che per ora, e dico per ora perché il titolo forse è di lavoro, chiamiamo In casa, in famiglia, mettere a fuoco il pianeta, con un non facile senso, gioco di parole, non è certo detto che rimanga questo, non titolo nel senso distruttivo di Attila, ma no, nel senso, ma di visione, capacità di leggere l'esistente nel senso e di magari visione, ciò che andrà oltre l'esistente. Bene, grazie Paolo Soraci, direttore di comunicazione, a risentirci. A presto. Grazie anche a voi di aver seguito questa puntata di Ferro e Bot. Ringraziamo in redazione Anita Panizza e in regia Fabio Cantadori. Vi ricordo che Ferro e Bot potete riascoltarlo sul sito di radio24.it. Alla prossima.